Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente partiremo dall'avvio del semestre italiano. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, come già ricordavano i nostri GR24, ha presentato il piano di lavoro, diciamo così, del semestre italiano davanti all'Europarlamento di Strasburgo. Un discorso ha avuto a disposizione circa 20 minuti, però parleremo anche di alcune dichiarazioni che sono arrivate sull'Europa, ma non da Strasburgo. E mi riferisco a questa dichiarazione che a mio avviso, se ben letta, dovrebbe far suscitare qualche polemica, ossia il premier olandese Mark Rutte ha detto, riferendosi all'ultimo vertice dell'Unione Europea, quello dei capi, dei presidenti del Consiglio, dei capi di governo della settimana scorsa, all'ultimo vertice Olanda e Germania hanno stoppato il tentativo di Francia e Italia di ammorbidire le regole di bilancio. Perché dico qualche polemica potrebbe suscitarlo? Perché insomma già venerdì scorso dicemmo che forse si era trattato di un pareggio a essere buoni, se vogliamo vedere come una sfida quasi calcistica il confronto Angela Merkel Matteo Renzi, ma in realtà il tentativo di avere un patto di stabilità più flessibile, o meglio di utilizzare gli strumenti di flessibilità già esistenti dentro il patto, per non avere un patto che irrigidisca ogni tentativo di crescita puntando tutto e solamente sul rigore dei conti pubblici. Però insomma, le dichiarazioni del premier olandese andrebbero in un'altra direzione, ossia infatti in un'intervista lunga pubblicata da The Telegraph, dice Rutte: Italia e Francia volevano un rilassamento delle regole di bilancio, ma i paesi come Germania e Olanda si sono opposti. Abbiamo fermato il loro tentativo di estendere questa flessibilità. Non c'è da preoccuparsi, le regole non sono cambiate, sta ora la Commissione vigilare sulla loro applicazione interna. L'Olanda è in stretta collaborazione con Germania e Finlandia sul rispetto delle regole, che non sono flessibili e non possono essere interpretate in maniera più ampia. La flessibilità di cui si parla è quella che già esiste all'interno delle regole e che consente di tener conto di certi fattori quando si valuta il rispetto dei target. Insomma, secondo gli olandesi non vi è stato nessun tipo di ammorbidimento e di nuovo avrebbe vinto il fronte del rigore, quindi tedesco, olandese e finlandese, il fronte che noi chiamiamo più che del rigore, del rigor mortis. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Non parleremo solo di questo, chiaramente parleremo anche di Alitalia, perché dopo l'incontro ieri a Palazzo Chigi tra le banche creditrici, oggi l'incontro tra i ministri Lupi e Poletti con il leader di CGL, CISL e UIL, confermato il numero degli esuberi a 2.250 unità e non ridotti a 1.500, compresi 750 andati già in cassa integrazione. Però piloti e assistenti di volo hanno già annunciato uno sciopero per il prossimo 20 luglio, vista la mancata convocazione delle associazioni sindacali delle rispettive categorie. Per la prima volta, ha detto il ministro Lupi, la prospettiva non è il baratro ma quella di un grande piano industriale di rilancio, ma bisogna chiudere la prossima settimana. Però il leader della CGIL Camusso dice: il nostro obiettivo è niente esuberi, non si può avere un'altra vicenda all'Italia che si tradurrebbe in migliaia di esuberi. Bonanni invece, leader della CIS, dice: bisogna chiudere l'accordo o saltano 22.000 persone, compreso l'indotto. E il leader della UGL Centrella ha detto: martedì 8 ci sarà un nuovo tavolo sugli esuberi. Su questo devo dire che avremo ospite anche il presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro, sarà nostro ospite più avanti per presentarci anche l'indagine annuale condotta sul risparmio degli italiani. Grospietro però ha detto che senza l'ok dei sindacati sulla vicenda d'Italia, Intesa non ci sta, cioè le banche creditrici, che sono soprattutto Intesa, Unicredit e Monte dei Paschi, hanno dato la loro disponibilità a venire incontro, ossia vuol dire ristrutturare il credito, magari trasformandolo in azioni, rinunciando di fatto a una parte, per poi uscirne nel medio termine dall'Italia. Però ha detto Grospietro, se senza la piena adesione del sindacato al piano industriale non siamo disposti a partecipare al finanziamento. Questo, ripeto, parleremo nella seconda ora del programma. Intanto, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, dalla Grecia il premier Samaras chiude il semestre di presidenza ellenica all'Unione Europea e lascia il testimone appunto all'Italia e dice: attenzione, il fiscal gap non ci sarà, non avremo bisogno come Grecia di un altro piano di aiuti. Ancora avremo una crescita dello 0,4-0,5% quest'anno, del 2,9% nel 2015 e del 3,7% nel 2016, e avremo un nuovo record nel turismo con 20 milioni di presenze quest'estate. Stamattina veniamo all'Italia, Assemblea Annuale dell'ANIE, che è l'associazione delle industrie elettroniche e elettrotecniche, ossia 1200 aziende con un fatturato che vale in Italia 56 miliardi di euro e quasi mezzo milione di addetti. Anno difficile anche per il settore elettrotecnico e elettronico. Il 2013, calo dell'11,8% appunto nel fatturato complessivo a 56 miliardi di euro. Praticamente in un anno il settore ha bruciato 7 miliardi di euro di fatturato, con un arretramento che ha superato l'11% nel settore delle componenti elettroniche, mentre le tecnologie per la trasmissione di energia elettrica hanno fatto meno 9, i cavi meno 8%, anche il settore ascensori, scale mobili ha fatto meno 6%, l'impiantistica meno 6, trasporti ferroviari elettrificati meno 4,6%, bene invece l'automazione industriale più 4 e la sicurezza e l'automazione degli edifici più 1%. Il nostro Francesco Dremigis ha però intervistato il presidente dell'ANIE Claudio Andrea Gemme, il quale ha ricordato che si sta verificando comunque un ritorno negli ultimi mesi di aziende verso il nostro paese. L'esempio delle aziende nel settore delle calzature e del tessile sono un segnale importantissimo. Le aziende elettroniche e elettromeccaniche sono le seconde che stanno rientrando nel paese, quindi devo dire che è un percorso virtuoso che premia la qualità del prodotto e il contenuto locale. La fabbricazione nel nostro paese deve essere un must. Di più si può fare. Intanto queste aziende virtuose che hanno già iniziato questo percorso sono entrate nella nostra pipeline ideale. Queste lo stanno già facendo, sono aziende importanti, lo stanno facendo. Le altre devono avere motivazioni in più. Il fatto che si possa reinvestire gli utili in ricerca e sviluppo, in innovazione ed education, e su questi investimenti il governo debba considerare una detassazione o almeno una riduzione delle tasse su questi importi è un aiuto fondamentale. Quindi detassare gli utili reinvestiti se ci sono gli utili, purtroppo molte aziende oggi non fanno utili, però creare un percorso virtuoso e trovare questi investimenti che possano avere nel futuro un loro ritorno, sicuramente sì. La Germania ha fatto un investimento lungimirante, ha avuto una fortissima immigrazione nel proprio paese, il sistema paese ha reagito, quindi banche e imprese sono andate a comprare tecnologie, impianti, aziende nel mondo e l'hanno trasferita nel loro paese. Io credo che questo sia un percorso che loro abbiano fatto virtuoso e che gli ha consentito di dare manodopera agli immigrati. L'effetto dell'invasione turca in Germania è noto, no? In Italia non siamo stati così pronti, però voglio dire, stiamo reagendo, io credo che sia una cosa che presto avverrà. We'll be right back. E su questo è arrivato un appello anche della vicepresidente di Confindustria, presente appunto con la delega per l'Europa, Lisa Ferrarini, sempre al microfono del nostro Francesco De Remigis. La forza degli imprenditori è questa, di credere ancora nel proprio paese. Noi ci crediamo enormemente, mai come in questo momento. Abbiamo però bisogno che il paese ci segua. Infatti. E ci dia un aiuto in termini di semplificazioni, di sburocratizzazione del paese, di costi dell'IRAP, che sono ormai, ci ripetiamo da tantissimi anni, e quindi insomma tante cose belle da fare. Il Presidente del Consiglio era partito con 20 giorni, poi è andato a 3 mesi, poi è andato a 150 giorni, adesso siamo andati a 1000 giorni, la deadline sono i 1000 giorni, dopodiché vedremo, visto che ha il coraggio, no, anche perché, ma insomma guardi, rivolta no, però non possiamo continuare ad avere dei feriti e dei morti sul campo, quindi questa, noi, c'è molta attesa, guardi, c'è molto ottimismo e credo che questo sia molto positivo, questa ventata di freschezza ne avevamo bisogno tutti quanti, però abbiamo bisogno anche però che si concretizzino tutte le dichiarazioni, perché sa, solo con delle dichiarazioni, con dei sé, dei massi, dopo che non si va tanto lontano. Innegabile che senza i fatti non si vada da nessuna parte, ma mi sembra che in discussione siano anche le parole, e quindi vengo all'apertura del semestre italiano. Perché dico le parole? Perché, come ricordavamo in apertura, insomma, dal vertice del Consiglio europeo della settimana scorsa avevamo capito che insomma la partita tra Italia e Francia da una parte e Germania, mettiamoci anche l'Olanda, dall'altra, si fosse chiusa con un pareggio, ma non la pensa così, ripeto, il premier olandese Mark Rutte, che è presente in tutta la stampa locale, in tutta la stampa olandese questa notizia, dice: noi con Berlino e anche con la Finlandia abbiamo bloccato il tentativo di Roma e di Parigi di modificare le regole e di rendere più flessibile il patto di stabilità. E quindi non c'è da preoccuparsi, le regole non sono cambiate, praticamente, di continuo Rutte, le regole di bilancio non sono flessibili, non possono essere interpretate in modo più ampio. La flessibilità di cui si parla è quella che già esisteva all'interno delle regole e che consente di tener conto di certi fattori quando si valuta il rispetto di alcuni obiettivi. Per cui praticamente si può dare più tempo ad alcuni paesi per rientrare sotto il 3% di deficit, ma insomma va, rivendica e si vanta di dire: abbiamo bloccato il tentativo di un patto di stabilità più flessibile, da parte, tentativo appunto italiano e francese. Invece Renzi oggi nel suo intervento sulla crescita ha detto: sì, ok, rispettiamo i patti, ma serve anche la crescita. Il patto si chiama patto di stabilità e crescita. L'Italia non viene qui per chiedere all'Europa i cambiamenti che lei non è in grado di fare. L'Italia viene qui a dire che lei per prima ha voglia di cambiare, che lei crede nelle istituzioni europee. E viene per dirlo con la convinzione e la determinazione, vorrei dire il coraggio e l'orgoglio di chi sa di rappresentare un grande paese che quando entra nelle istituzioni europee non va per chiedere ma va per dare. Ecco che allora è chiaro che la questione economica che noi stiamo vivendo e la discussione che c'è stata anche nell'ultimo Consiglio non si riduce a una richiesta di alcuni paesi rispetto ad altri del cambiare le regole. Noi siamo stati i primi a dire che vogliamo rispettare le regole e non chiediamo di cambiare le regole. Diciamo però che rispetta le regole chi si ricorda che abbiamo firmato tutti insieme, i nostri predecessori, un patto che si chiama patto di stabilità e di crescita. C'è la stabilità, ma c'è anche la crescita. E la richiesta di avere la crescita come elemento fondamentale della politica economica europea non la fa un paese, serve all'Europa, non serve all'Italia. Senza crescita l'Europa non ha futuro, non è un singolo paese avere un problema. Allora, se dico che sono d'accordissimo con quello che ha detto Renzi, verrò invaso di sms al 349-238-6666. Ecco che sei renziano. Però lo dico, sono d'accordo. Il problema è capire se chi se ne frega se sono d'accordo io, se siano d'accordo anche gli altri partner europei. C'è il nostro inviato Sergio Nava, che ha seguito anche oggi tutto l'intervento di Matteo Renzi a Strasburgo. Sergio, buonasera. Buonasera. Allora, cioè, è un po' strana sta cosa, che da un lato, per carità, Renzi dice: guardate che non chiediamo noi come Italia dei favori, degli sconti, così la crescita serve all'Europa. Il riferimento era anche all'esito elettorale, io perlomeno l'ho letto così, all'ultima elezione europea, perché senza crescita non c'è Europa, cioè avanzano poi i partiti anti-Europa oltre che anti-euro. È un po' intempestiva questa dichiarazione di Rutte, ma lì ce n'è... è stata commentata, perché insomma rivendica il fatto: non vi preoccupate cari olandesi, noi tedeschi abbiamo bloccato il tentativo italiano e francese di avere un patto di stabilità più flessibile, oppure siamo ancora ai nominalismi puri. Prego. Ma qui diciamo la dichiarazione di Rutte non ha avuto ancora un momento vastissimo eco, bisogna dire, ma fondamentalmente la si ritrova poi in certe posizioni. Proprio oggi, ora di pranzo, all'interno di un dibattito della nostra rete Euronet, c'era Manfred Weber, che è il capogruppo del Partito Popolare Europeo, quindi la maggiore forza di centrodestra, e ha anticipato quello che poi ha detto anche in plenaria. Di fatto ha detto: i debiti non creano futuro, lo distruggono, dobbiamo continuare sulla linea rigore. Allora continua il braccio di ferro, la verità è questa, la verità è che tra l'altro ricordiamo Weber fa parte dei cristiano sociali bavaresi, sono l'ala più rigorista e più conservatrice all'interno della coalizione con la CDU di Angela Merkel. E di fatto il braccio ferro prosegue, si continua da una parte Italia e Francia a dire: ok, facciamo riforme, dateci più margini, scorporiamo gli investimenti dal calcolo del deficit, e gli altri dicono: non faremo sconti ulteriori rispetto a quelli che sono già stati scritti. Weber diceva: Portogallo e altri paesi piccoli hanno riformato senza avere sconti e non li potete avere neanche voi. La verità è una sola, che tutto poi passerà in carico alla prossima Commissione Europea, al prossimo Commissario degli Affari Economici, è lì che veramente si vedrà quali margini si possono trovare, perché le conclusioni, diciamocela tutta, dello scorso vertice europeo che si è concluso la settimana scorsa non dicono granché, resta tutto ancora molto aperto. Sì, appunto, abbiamo detto pareggio per essere buoni, mi scrive un ascoltatore, ma insomma lei non dice nulla sugli olandesi e poi gli scandali in Olanda. No, ho letto il suo messaggio, li leggiamo tutti i messaggi, stiamo cercando di capire, al di là della dichiarazione del Premier Rutte, se insomma questa cosa poi sia condivisa e da quanti paesi dentro l'Europa. Comunque, torniamo sul discorso di presentazione del semestre italiano da parte di Matteo Renzi. Renzi ha detto: la grande sfida è ritrovare l'anima dell'Europa, e poi ha fatto una battuta: se dovessi fare un selfie dell'Europa verrebbe fuori un volto pieno di stanchezza, rassegnazione e noia. Che cos'è oggi il dibattito sulla politica europea dopo la crisi che tutti abbiamo vissuto e anche la crisi politica che stiamo vivendo? Lasciatemelo dire con una battuta: se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori? Posso dirlo con estrema preoccupazione? Emergerebbe il volto della stanchezza, in alcuni casi della rassegnazione. Se dovessi dirla in modo sintetico, direi: l'Europa oggi mostrerebbe nel selfie il volto della noia. Se va bene, mostra il volto della noia, perché se va male, sai che volti mostra. Comunque, Sergio Nava, veniamo ai punti, chiamiamoli così, programmatici del semestre italiano. La crisi, ha detto Renzi, ha lasciato una ferita molto forte. L'Italia non viene per chiedere, per dare, l'abbiamo detto. C'è stato un passaggio anche importante sulla Gran Bretagna, Sergio. Sì, diciamo lì. Allora, volevo premettere prima una cosa, che quello che emerge da questo discorso, adesso arriviamo anche alla Gran Bretagna, ma è che di fatto è stato un discorso, bisogna anche dirlo, abbastanza fumoso, le è stato molto rimproverato poi negli interventi che si stanno succedendo ancora in corso, Renzi poi contro replicherà. Effettivamente Renzi non ha detto quali sono gli obiettivi del semestre europeo, questo è stato abbastanza inusuale, perché normalmente quello che fanno i presidenti di turno è venire e dire: faremo questo, ci concentreremo su questo, cercheremo portare a casa un risultato su questo. Lui ha citato en passant, con metafore, anche con citazioni prese anche dall'Odissea, il tema della crescita, il tema dell'immigrazione, ma non ha detto concretamente cosa l'Italia intende fare, e questo lascia tutto molto fumoso. Invece, venendo alla Gran Bretagna, ha spezzato una lancia, diciamo, a favore della permanenza della Gran Bretagna all'interno dell'Europa, perché ha detto un'Europa senza la Gran Bretagna sarebbe meno Europa. Quindi, insomma, è intervenuto nel dibattito sulla possibile uscita di Londra dall'Unione Europea, dicendo no, rimanete e veniamoci incontro in qualche modo. E sulla Gran Bretagna, appunto, ha detto attenzione, senza Regno Unito, non, appunto, come tu ricordavi, non c'è Europa. Un altro passaggio che vorrei far ascoltare, l'ultimo, è quello che riguarda la nuova generazione così evocata. Hai detto bene, adesso vedremo anche i vari interventi, i commenti. È stato un discorso molto, alcuni potranno dire molto alto, altri potranno dire troppo alto, nel senso che poco concreto e poco programmatico, si sarebbe detto una volta. Dice Renzi, comunque in Europa c'è una generazione nuova, la generazione di Telemaco. La nostra generazione ha il dovere di riscoprirsi Telemaco, ha il dovere di meritare l'eredità. Noi non vediamo il grande frutto dei nostri padri come un dono dato per sempre, ma come una conquista da rinnovare giorno dopo giorno. E allora l'invito di questo semestre europeo non è semplicemente a ragionare di questioni economiche, su cui, ve lo garantisco, ci faremo sentire con tutta la nostra forza, con la forza di chi è un grande paese e di chi contribuisce al bilancio dell'Unione in modo maggiore di quanto incassa. Ma non è semplicemente nella moneta che abbiamo in tasca il nostro destino. Il nostro destino è nel riscoprirsi eredi, nell'avere il diritto di chiamarci eredi, nel prendere la grande tradizione dalla quale noi veniamo e dire che assicureremo un domani a questa tradizione. Lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a coloro i quali sono morti nel corso di secoli perché l'Europa fosse non soltanto un'espressione geografica, ma un'espressione dell'anima. In bocca al lupo a tutti noi. In bocca al lupo a tutti noi, è un selfie, è un in bocca al lupo che uno si dà da solo. Però Sergio Nava, quando è che entreremo nel vivo? Nel senso, quando è che arriveranno, secondo te, e quali occasioni potrebbero anche essere quelle corrette per arrivare anche delle iniziative, delle proposte concrete? Allora, uno dei tratti caratteristici di questa presidenza è che ancora è molto fumosa, anche nel c'è un programma, però non ancora le priorità non sono neppure state pubblicate online. Diciamo che avrà dei punti importanti, il primo già con l'Eurogruppo e l'Ecofin della prossima settimana, ci sarà un consiglio immigrazione e affari interni a Milano l'8 e 9 luglio e si parlerà ovviamente di immigrazione, questo sarà anche importante, però i punti fondamentali saranno il Consiglio Europeo di ottobre, dove si dovrebbe tornare a parlare di flessibilità, eventualmente anche di contratti per le riforme. A dicembre si dovrebbe parlare di energia, che è un tema molto caldo visto anche la crisi con la Russia, e a novembre dovrebbe esserci il famoso vertice sull'occupazione giovanile, che doveva essere inizialmente l'11 luglio e che poi è stato rinviato per timore di contestazioni e scontri a Torino. La caratteristica di questa presidenza è di essere ancora poco definita, si riflette molto bene il discorso di Renzi, molto ampio, molto alto, ma poi stringi, c'è ancora da capire esattamente l'Italia cosa vuole, lo sappiamo, la crescita, ma come voglia arrivare al risultato è ancora un po' tutto da vedere. E appunto, poi non aiutano certe dichiarazioni che ricordavamo in apertura del premier olandese, che diceva guardate che non è cambiato niente, si va avanti come diciamo noi. Grazie a Sergio Nava in collegamento con noi da Strasburgo. Adesso arriviamo verso il meteo, poi la borsa. Dunque, scrive un ascoltatore, un gentile ascoltatore, come si dice in questi casi. Buonasera Barisoni, ieri sera quando ha fatto la puntata sul POS non ho avuto tempo, ma una cosa te la volevo dire, sei proprio un deficiente, vaffan. Vabbè, allora, evidentemente non l'è piaciuta, capisco che non l'è piaciuta, però mi scusi, abbiamo chiarito ieri che, contrariamente a quanto alcuni hanno pensato, non è un obbligo il pagare con la carta di credito o con il bancomat. È un obbligo per la categoria professionale averlo, per cui se io vado lì e dico non ho contanti, voglio pagare con la carta di credito, tu non puoi dirmi no, non ce l'ho. Tutto qua. Mi sembra un atto di civiltà, mi devi offrire la possibilità. Dopodiché abbiamo anche chiarito che non devono arricchirsi le banche, e ci sono già, mi hanno scritto molte banche, dicono guarda che i servizi, che ci sono servizi che offriamo a costi più bassi. Comunque arriverà, lo attendiamo, lo vedremo al varco a fine luglio, il provvedimento che dovrebbe, stante quello che abbiamo capito, ridurre, rendere molto più concorrenziali i costi e le commissioni praticate sul pagamento elettronico con carta di credito o con bancomat. Detto ciò, basta. Allora, se mi dite che costa 160 euro e il commercialista 160 euro non ce li ha, rido e basta, ok? E non posso credere che un commercialista abbia un grande costo nel spendere 160, tanto è un servizio in più che offri al tuo cliente. E il resto qual è? Qual è il problema? Che abbiamo fatto notare che il paese in cui circola più contante in Europa è uno di quelli in cui circola più contante nei paesi occidentali, è l'Italia, no? E stranamente anche il paese in cui l'evasione e il sommerso è più alta d'Europa, è questo che ha fatto arrabbiare alcuni? Beh, è un dato di fatto, se poi ci sia una correlazione uno ci può arrivare anche da solo. Forse c'è una correlazione tra l'ammontare di contante, che è il più alto in tutta Europa, che circola nel nostro paese, e il nero che si fa in questo paese. Forse c'è, no? Dopodiché è ovvio che abbiamo anche detto che il vero contrasto all'evasione non lo fai dandomi solo la possibilità di pagare con il POS, perché se poi l'idraulico piuttosto che l'elettricista, piuttosto che il commercialista o chi vuoi ti dice beh è 100 se paghi con la carta ed è 80 se paghi in contanti, il problema resta, il vero contrasto lo fai se metti in grado anche me come cliente di avere un vantaggio nel chiedere il pagamento con carta di credito, visto che poi per chi mi offre il servizio, essendo tracciabile, equivale, no, a un pagamento appunto visibile. E quindi, se mi metti un vantaggio, è chiaro che io chiederò sempre più spesso pagamenti o in assegno, in con carta di credito e sempre meno in contanti. Ma non ho capito il motivo della deficienza del posto in cui lei mi ha cortesemente mandato. minuti, adesso andiamo alla borsa e poi alla vicenda all'Italia e al risparmio degli italiani. Certo, no, adesso non riapro la puntata sul POS. Però scusatemi, il benaltrismo che senso ha? È inutile continuare a dire sì, però poi lo Stato non funzioni, che sia uno scandalo il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Che ci sia una burocrazia opprimente anti-impresa, qualunque impresa, lo ripetiamo da anni e decenni ormai, ahimè, e vedremo se le riforme annunciate avranno anche un esito concreto ed efficace ed effettivo, però non è che ogni volta che si parla di una cosa con il benaltrismo classico di questo paese bisogna dire sì, però tu mi vuoi far pagare, mi obbliga il POS, ma lo Stato ha... Ho capito. Ognuno venga criticato per quello che fa di sbagliato, non cerchiamo sempre un'altra scusa, se no mi viene il sospetto che siano scuse accampate per altri motivi. Comunque, dicevamo della borsa, più 0,50% Milano, meno 0,40% Parigi, invariata Francoforte, più 0,20% Londra e più invariata anche l'America. Tra i titoli, Telecom perde l'1,70, Jux l'1,5, Saipem l'1,20 come Luxottica, Monte dei Paschi in meno 1,1. Bene invece Autogrill più 4,30 e World Duty Free più 2,20, Pop Milano più 3, Mediaset più 2,15, Buzzi Unicem più 2, Azimut più 1,70 come Unipolsai, Enel più 1,5 come Prismian e la Pop Emilia Romagna, ma anche Mediolanum. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Partiamo dai titoli Autogrill e World Duty Free. Insomma, cosa è successo? C'è una nuova previsione di consumi in aumento, ma sappiamo che il gruppo è attivo anche nella ristorazione, per esempio, dagli aeroporti americani. Noi pensiamo a Autogrill solo come gruppo italiano. Prego. Sì, In realtà si tratta soprattutto di un rimbalzo dovuto a ragioni tecniche, sono due titoli che nell'ultimo periodo erano scesi molto, in particolare World Duty Free aveva perso oltre il 10% dal 10 giugno, scendendo da 10,3 fino a sotto quota 9 euro, discorso simile anche per Autogrill che era scivolato sotto i 6,5 euro. C'è stato un rimbalzo dovuto a ragioni tecniche, anche perché non ci sono né notizie particolari né sul fronte societario né sul fronte dei consumi che lo giustificano. Ci sono invece molti operatori che operano da un punto di vista tecnico su questi due titoli e dopo aver toccato dei punti di minimo hanno rimbalzato. Quindi nessuna novità concreta, diciamo, né di settore. Invece su Mediaset qualche dichiarazione, a muovere il titolo c'è stata, più 2,15%. Sì, ieri c'è stata la presentazione dei palinsesti autunnali per Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente in conferenza stampa, ha spiegato anche un pochettino le strategie per quello che riguarda il gruppo sulla partecipata spagnola Digital Plus. Ha detto che la strada giusta è stata trovata e ha fatto capire, anche senza dirlo espressamente, che molto probabilmente Mediaset uscirà da Digital Plus, quindi venderà il 22% a Telefonica, e questo è un po' quello che tutti si aspettavano e che anche il mercato auspicava, perché comunque Mediaset è già impegnata su tante partite, anche su come abbiamo visto recentemente sui diritti del calcio, che sono partite molto dispendiose, per cui insomma fare un pochettino di cassa per Mediaset non è male. Oggi il mercato ha premiato con questo più 2,15%. Poi ci sono altri titoli che si sono mossi bene, mi riferisco per esempio a Fiat, ieri il dato sulle immatricolazioni auto. Allora, Guido Maurino, dicevamo Telecom Italia da un lato, ma Fiat dall'altro. Sì, allora, per quello che riguarda Fiat, un po' l'avevi già ricordato tu, ci sono stati i dati ieri sulle immatricolazioni in Italia che sono arrivati a borsa chiusa, che segnano un ritorno alla crescita, un più 2,8% per il gruppo Fiat, anche se ancora una crescita minore rispetto al mercato che ha fatto più 2,8%. Dati buoni sulle immatricolazioni sono arrivati anche dagli Stati Uniti, tutto lascia pensare che si possa avverare quello che ha detto l'amministratore delegato Sergio Marchionne sul fatto che il secondo trimestre possa essere migliore del primo. Per quello che riguarda Telecom Italia, che ho già ceduto l'1,75%, qui il discorso è duplice: da un lato è il settore delle TLC europeo che non è andato bene oggi, dopo che un operatore francese ha detto di non voler partecipare al consolidamento proprio sul mercato francese. Si tratta di una notizia negativa perché molti titoli telefonici erano stati spinti negli ultimi mesi proprio dal fatto che ci si aspettava un consolidamento generale del settore in Europa. Il fatto che qualcuno si chiami fuori vuol dire che forse non ci sono più le condizioni di mercato. In parte poi Telecom ha pagato anche l'intervista del presidente Giuseppe Recchi al Sole 24 Ore, che ha detto tante cose, ma sembra ancora una volta escludere l'ipotesi di una cessione di TIM Brasil, per cui insomma questo un pochettino si è andato a ripercuotere sul titolo. Tra gli altri titoli vorrei commentare l'esordio in borsa per Fineco, è periodo di matricola, ieri parlavamo dell'operazione Fincantieri non esaltante, nel senso che ha dovuto ridurre di molto la raccolta prevista, gli istituzionali si sono visti poco e quasi tutta l'operazione andrà al risparmiatore privato. Oggi ha debuttato Fineco, no? Sì, un debutto molto positivo, il titolo ha guadagnato l'8,11%, anche Fineco... Che si chiama Fineco Bank, per essere precisi, come titolo... Prego, prego. No, anche per quello che riguarda Fineco c'era stato un po' di scetticismo, nel senso che comunque il prezzo di offerta poi era stato messo nella parte bassa della forchetta, 3,7 euro. invece oggi ci sono stati forti acquisti, il titolo ha guadagnato l'8,11%, si è portato a 4 euro che era proprio, diciamo, lo spartiacque a metà strada del range di offerta che inizialmente prevedeva un range fra i 3,7 e i 4,4 euro, per cui un esordio positivo per la controllata di Unicredit. Allora, vedo altri messaggi sul POS, adesso risponderemo di nuovo anche sul POS. Grazie, migliori e peggiori, scusatemi, migliore Fidia più 10,70, Bastoggi più 9,16, poi Finecobank. Fronto opposto invece Fintel Energia Group meno 6,90, Seat Pagine Gialle meno 5,90, la Roma Calcio meno 4,70%. Allora, dunque, da dove parto? Perché mi scrive un tassista romano, dice che ha già da 5 anni l'obbligo di POS con sanzione interna molto tosta. In 10 anni, con un transato di 10.000 euro, ha lasciato a banche e gestori quasi 3.000 euro. Ma adesso, obiettivamente, è il 30%. Allora, che siano troppo cari le commissioni, troppo care le commissioni sulle transazioni, sono d'accordissimo. Se non ricordo male, nel caso dei tassisti, ma potrei sbagliarmi, sono intorno al 4%. Ma lei sta parlando di 3.000 euro su 10.000, obiettivamente, sarebbe una follia. Già è tanto il 4% nel momento in cui si obbligano le categorie ad avere il POS, il dispositivo per pagare con Bancomat. E poi ancora, oggi mi scrive invece un ascoltatore, ha pagato al tabaccaio 100 euro, ha chiesto di poter avere di pagare col banco, ma no, non ce l'abbiamo, tanto non c'è sanzione. Poi qualcuno continua a dire che io sul POS non capisco una mazza, diciamo così, va bene, spiegatemi perché, spiegatemi cos'è questa resistenza culturale a fare come fanno negli altri paesi, ossia offrire la possibilità a un cliente, ripeto, in Gran Bretagna, in Germania, in America, in Scandinavia, ci paghi anche la Coca-Cola con la carta di credito del banco, ma qual è il problema? Ecco, poi c'è chi mi scrive, non capisce che in questo modo verranno tracciate le nostre spese. Allora, due cose, abbia pazienza. Una, non è un obbligo, lei può pagare anche in contanti, la legge dice che sopra i 30 euro la categoria professionale deve avere la possibilità di avere il POS. Uno. Due, ma abbia pazienza. Se il suo timore è solo a fini fiscali, ma qual è il problema? Se lei spende quello in base a quello che dichiara, io non capisco veramente il problema. Nel senso, io uso spessissimo le carte di credito del Bancomat, ho lo stipendio fisso. Nel senso, è ovvio che, cioè, qual è il tema? Il redditometro? Ripeto, secondo me non combatterà l'evasione questa legge, perché finché tu non fai un vero contrasto all'evasione, dando un vantaggio anche a chi chiede la certificazione del compenso, o perché chiede di essere pagato con un assegno, o perché paga con un assegno, perché paga con la carta di credito, non se ne uscirà. È un servizio in più. Vabbè, però evidentemente ci sono intere categorie che non ne vogliono sapere. Adducendo, a mio avviso, anche una grande quantità di scuse. In alcuni messaggi sento anche un grosso rumore di specchi, di rumore di unghie sugli specchi. Comunque, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. No, non voglio parlare con te del POS, perché insomma, anche perché ci manca solo quello come tema. E in realtà la vicenda è delicatissima, si chiama, tanto per cambiare, Alitalia. Allora, ieri c'era stato un primo incontro con a Palazzo Chigi con le banche creditrici e mi era sembrato, insomma, che la disponibilità delle banche a venire incontro all'Italia, a rinunciare anche ai crediti che hanno concesso, aspettare a esigerli, magari trasformare in azione, c'è. Oggi però doccia fredda, perché l'incontro tra i ministri Lupi e Poletti con i leader di CGL e CISL e UIL, diciamola così, non è andato bene. Gianni? Non è andato bene e sembra che siamo un po' sempre al punto di partenza. Da un lato c'è una richiesta un diktat di Etihad, quindi una richiesta poi di Alitalia e sindacati, fatta proprio anche dal governo, di 2.251 esuberi, il 17% circa dell'occupazione attuale del gruppo Alitalia, che è di 13.800 persone, esuberi che, dice Etihad, devono essere messi fuori definitivamente, quindi quelli che entrerebbero nella lista degli esuberi sono lavoratori che non potrebbero più essere riammessi neanche quando la compagnia, come dice o promette, secondo il punto di vista, il piano industriale, potesse, diciamo, svilupparsi, perché inizialmente l'Alitalia in cui entrerebbe Etihad è previsto che riduca l'attività e non l'aumenti. Allora, questo è proprio il problema principale, e anche oggi c'è stata un po', come dire, una passerella, ma di posizioni. Il sindacato tra l'altro chiede anche di conoscere meglio, di conoscere il piano industriale, perché non è mai stato esplicitato, questa può essere anche una posizione tattica, però dall'altra parte non è stato ancora presentato o ufficializzato quale sarà, cioè cosa diciamo con piano industriale, qual è ad esempio il piano delle rotte, anche delle rotte a lungo raggio che non subito, ma a cominciare dall'anno prossimo con gradualità verrebbero sviluppate, rotte che potrebbero incrementare i ricavi dell'Alitalia. E poi non viene spiegato quali sono gli strumenti allora per coprire questi esuberi, si parla di voci di una parte di esuberi che potrebbero essere assorbite alcune centinaia anche dai servizi di terra in aeroporti di Roma, ma questo non è confermato. C'è il discorso dei piloti che in piccola parte potrebbero essere riassunti, ma ad Abu Dhabi, quindi andare a lavorare a 6-7 ore di volo dall'attuale base in Italia. Quindi ci sono tanti punti interrogativi ancora. Sì, devo dire che le posizioni espresse oggi dai sindacati lasciano presagire che, insomma, non sarà un incontro facile. Allora, in primo luogo, i piloti e gli assistenti di volo, e quindi in una nota congiunta ANPAC, AVIA, ANAP, hanno dichiarato sciopero per il prossimo 20 luglio, 24 ore di sciopero, perché il Ministero dei Trasporti non ha convocato le loro associazioni sindacali, quello dei piloti e degli assistenti di volo, sul tema l'Italia Etihad. Poi ho visto anche delle dichiarazioni molto diverse tra i sindacati, perché Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL, ha detto no, il nostro obiettivo è niente esuberi, abbiamo detto con nettezza che non si può avere un'altra vicenda all'Italia che si tradurrebbe in migliaia di esuberi. Mentre il numero uno della CISL, Raffaele Bonanni, ha detto: attenzione, si deve chiudere questo accordo con l'Italia o saltano 22.000 persone, incluso l'indotto. Stiamo lavorando per ridurre il numero degli esuberi, ma il messaggio era molto diverso: bisogna però chiudere questo accordo. Vorrei capire quale soluzione potrebbe essere trovata. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, stavo concludendo con Gianni Dragoni l'approfondimento su Alitalia. Alla luce delle dichiarazioni dei sindacati, molto più morbida quella della CISL, molto più dura quella della CGL, Gianni, com'è che si potrà trovare, anche perché fra poco avremo ospite il presidente del Comitato di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, che ha dichiarato, lo sentiremo, insomma, che loro, se non c'è un accordo sindacale, non intervengono nel piano, cioè si fermano. Gianni? Ovviamente non sono in grado di prevedere possa finire, però credo, viste le posizioni, vedendo anche tante precedenti trattative, che qui quello che manca è come, ad esempio, il governo, se, visto che interviene anche oggi, ha ricevuto i sindacati, se ha una proposta da fare per coprire il problema degli esuberi. Finora questa proposta, diciamo, ci sono alcune voci, prima abbiamo anche ricordato delle ipotesi, però non c'è stata, e quindi ecco questo potrebbe essere un elemento, se c'è una possibilità, se c'è un modo far capire a questi lavoratori che pur perderebbero il posto, quindi sarebbe comunque una soluzione dolorosa, pesante. Poi chiarire anche se il piano che le due compagnie hanno, cosa dice questo piano, che prospettive dà, cioè consentire che ci sia anche magari una valutazione non solo a scatola chiusa, e comunque probabilmente una riduzione. Io non credo, non esiste una trattativa sindacale che si concluda senza una modifica della posizione di partenza di tutte le parti. Quindi sappiamo che Etihad invece è piuttosto irremovibile, tuttavia mi aspetto che per arrivare a una soluzione ci potrebbe essere una riduzione del numero degli esuberi, anche se finora questo non l'abbiamo visto. Su questo punto vedremo. Non posso continuare a rispondere sul POS, continuano ad arrivare messaggi sul POS. Attenzione, faccio solo notare che un ascoltatore, un direttore di banca, poi lo prenderò, che faceva il calcolo di, dunque, direttore di Primera Banca Italiana, il nostro POS costa 2 euro al mese, 25 euro all'anno, commissione transato bancomat 0,7%. Poi a chi mi dice che io ero quello che elogiava gli italiani che avevamo i contanti quando è scoppiata la crisi in America, dico che forse ha preso un colpo di sole, non ho mai detto una roba del genere. Detto questo, grazie Gianni Dragoni. E adesso, come dicevo, occupiamoci del risparmio degli italiani, ma anche all'inizio della vicenda all'Italia. Già citavo prima le dichiarazioni del presidente del consiglio gestione di Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro, che è nostro ospite. Buonasera presidente. Buonasera. Con lei vorrei parlare anche e soprattutto dell'indagine che avete presentato oggi sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, che come ogni anno è realizzata da voi assieme al centro Einaudi, ed è un'intervista, un'indagine che riguarda oltre 1000 capi famiglia, è alla 30ª edizione, quindi molto utile anche per vedere un raffronto anno su anno su come si muovono le scelte, cambiano le scelte finanziarie degli italiani. Però prima di tutto su Alitalia, qui c'è uno sciopero annunciato dai sindacati, una poca chiarezza, diciamo, sugli esuberi complessivi. Voi ieri avete avuto un incontro come banche creditrici di Alitalia a Palazzo Chigi. Che tipo di punto di caduta, di punto di compromesso pensate sia possibile raggiungere, e quanto peserà però poi la posizione sindacale per voi? Guarda, io all'incontro non ero presente, c'era il nostro consigliere delegato che ha presentato le posizioni decise dal consiglio di gestione. Noi siamo convinti che all'Italia sia importantissima per il Paese, e quindi siamo disposti a fare un sacrificio che deve essere considerato un investimento per la banca, per i suoi crediti, per la sua posizione e anche per il Paese. La condizione che ha posto il Consiglio di gestione è che si raggiunga una situazione nella quale l'Italia può da un lato rendere il servizio necessario al Paese, dall'altro diventare un'impresa profittevole, e questo significa che ci deve essere un piano industriale convincente e basato sull'accordo con tutte le parti rilevanti, a partire naturalmente dai rappresentanti dei lavoratori. Se manca questa condizione, noi non siamo disponibili a entrare in una nuova iniziativa che non appartiene alla banca, non è il nostro mestiere, e quindi naturalmente non siamo disposti a rinunciare a fare crediti ad altre imprese per sostenere un'attività che non è basata su basi solide. Quindi, se ho ben capito, voi siete disponibili a fare un sacrificio che significa poi tradotto a rinunciare a una parte dei crediti, rinegoziare una parte dei crediti che avete con l'Italia, magari come si è detto nel passato trasformandoli in azioni dell'Alitalia e quant'altro, però a patto che vi sia un accordo solido e quindi anche con la parte sindacale. Sicuramente, noi abbiamo un piano industriale e uno dei punti fermi del piano industriale è che noi non vogliamo essere azionisti di imprese che non siano bancarie, quindi neppure di Alitalia. Ma naturalmente, laddove già ci troviamo ad essere azionisti, il nostro compito è di far crescere queste imprese e renderle indipendenti dalla nostra partecipazione. Allora, se c'è un piano industriale, se c'è un partner forte, e questo lo sappiamo già dall'anno scorso, noi avevamo stabilito che era indispensabile un partner internazionale, pensavamo che sarebbe stata Air France, adesso è Etihad, bene, ci va questo partner ha posto delle condizioni, queste condizioni vanno discusse, non certo con noi. L'importante è che tutti i problemi vengano risolti e che si parta su una base chiara, e cioè un piano industriale che sia sostenibile, in cui tutti coloro che devono svolgere un ruolo sono d'accordo per svolgere quel piano. Quindi non farete più, non avrete più partecipazione in attività non bancarie, quindi il vecchio modello della banca di sistema è tramontato. Laddove vi siete e avete già acquisito le partecipazioni, come nel caso dell'Italia, più che partecipazione dei prestiti in questo caso, e dite bene, non vogliamo mollare l'Italia, diciamo, a metà del guado, però vogliamo fare in modo che il nuovo piano industriale permetta poi a Banca Intesa di uscire, diciamo, dalla partecipazione all'Italia. Se è un piano credibile, siamo disposti anche a qualche sacrificio purché si arrivi a questo obiettivo di fondo, se ho ben capito. Credibile vuol dire appunto con l'accordo di tutti, non che venga rimesso in discussione magari con agitazioni sindacali, scioperi e quant'altro. Adesso resti con noi, Presidente Grospietro. C'è il traffico, poi vorrei parlare anche appunto del risparmio degli italiani, di quello che le banche possono fare non solo per il risparmio, per l'Italia in generale. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro. Allora, al di là della vicenda dell'Italia, veniamo anche alla ricerca che da 30 anni presentate assieme al Centro Einaudi. Già raccontavamo in questi mesi che può sembrare paradossale, ma gli italiani sono tornati a spostare i loro risparmi sulle forme di risparmio gestito, anche perché le obbligazioni rendono pochissimo, cioè chi i risparmi li ha. Voi avete colto questo spostamento nell'indagine a cui facevo riferimento? Sì, la propensione al risparmio dopo diversi anni di continua discesa nel 2013 è leggermente risalita, e questo è paradossale, ma da un lato, ma dall'altro io userei anche un'espressione diversa, cioè è dimostrazione di una forte volontà delle famiglie italiane di risparmiare, al punto che la propensione aumenta nel momento in cui la disoccupazione è massima, quindi c'è il massimo di compressione dei redditi. Non dimentichiamo poi che oltre alla disoccupazione c'è stato un aumento della pressione fiscale. Le famiglie stanno ricominciando a guardare al futuro, hanno adeguato anche le loro modalità di spesa, perché tutti dicono che hanno tagliato le spese, ma meno di quanto avevano fatto l'anno precedente in tutti i capitoli di spesa, quindi vuol dire che hanno riassestato i bilanci familiari e hanno un pochettino ampliato la capacità di risparmiare. Poi, come lei dice, il risparmio gestito viene considerato più interessante che in passato, soprattutto da coloro che già in passato gli avevano fatto ricorso e quindi evidentemente sono rimasti soddisfatti. E in effetti dalla vostra indagine emerge che nel portafoglio degli italiani le obbligazioni sono in calo, il 20% contro il 29% nel 2006, anche se resta uno strumento molto scelto. C'è ancora molta molta distanza dal mondo delle azioni. Pensate che nel 2003 un intervistato su tre aveva dichiarato di acquistare titoli in borsa, adesso siamo a uno su 10, quindi questo la dice lunga sulla disaffezione anche per quello che è successo in borsa negli ultimi anni. Ancora in debole le varie altre forme di risparmio gestito, e poi notavo come c'è la quota di chi utilizza i soldi risparmiati per acquistare una casa, è una quota minima, solo il 5,4%. Da questo punto di vista, che cosa può fare lo Stato, ma che cosa possono fare anche potete fare anche voi come banche, nel caso specifico come gruppo Intesa San Paolo? Lei ha detto, attenzione, insomma, il calo dei risparmi è colpa anche di una finanza pubblica che ha prosciugato i redditi delle famiglie. Però spesso si dice che le banche non stanno mettendo in circolo il denaro sufficiente per la ripresa dell'economia. Lì è arrivato un invito anche molto forte da parte di Mario Draghi con i nuovi strumenti che vi ha offerto. Ma guardi, intanto io non ho detto che la diminuzione del risparmio è colpa, perché le colpe non servono a risolvere le situazioni economiche, però la diminuzione della capacità di risparmio degli italiani va messa finanza sullo sfondo di una finanza pubblica molto rigorosa. Cioè, altri paesi che hanno avuto una minore riduzione della capacità di risparmio, però hanno fatto una politica della spesa pubblica ben diversa, quindi è ovvio che quando il denaro circola perché la finanza pubblica lo mette sul mercato è più facile risparmiare. In Italia, quello che io volevo dire, non è che la riduzione del risparmio sia dovuta al fatto che siamo diventati un popolo di scialacquatori, è che c'è stata una così forte riduzione del reddito disponibile che ovviamente risparmiare è diventato più difficile. Poi, quali sono le scelte dei risparmiatori? È chiaro che l'andamento delle azioni con la crisi è stato tale che, come diceva Einaudi, il risparmiatore cuore di coniglio, gamba di lepre, memoria di elefante, per un po' le mette da parte le azioni, però i tassi di rendimento dei titoli a reddito fisso a partire dai titoli di debito pubblico sono scesi, quindi il risparmiatore comincia a guardarsi intorno e, pur mantenendosi su scelte prudenti, cerca qualcosa che renda un po' di più. Quindi, non fidandosi di scegliere personalmente le azioni, si rivolge al risparmio gestito, che presenta diverse possibilità di scelta, diversi livelli di rischi, eccetera, e chi lo ha fatto si è trovato soddisfatto e desidera incrementare questa scelta. E per quello che riguarda, e vorrei chiudere anche su questo, il ruolo delle banche, perché lei ha detto, è chiaro che i risparmi si sono contratti perché il potere d'acquisto è calato sia perché l'economia va male, la domanda interna non c'è e imprese, artigiane del commercio, manifatturiere chiudono, hanno fatturati in calo, la disoccupazione record, ma anche perché le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni hanno pesantemente colpito il potere d'acquisto degli italiani e a mio avviso si è generato un circolo vizioso. Per interrompere questo circolo vizioso, da più parti si chiede una maggior presenza del credito bancario. Mario Draghi, nell'annunciare le nuove misure, ha detto i 400 miliardi che metterò inizialmente a disposizione come Banca Centrale Europea sono vincolati al fatto che voi li utilizziate come banche dell'area euro per le imprese e le famiglie, non per i mutui. In questo modo avrete tassi agevolati. Se vedremo che non verranno utilizzati in questo modo, dovrete ridarceli pagando anche una penale. La sintetizzo in maniera un po' approssimativa. E ha reso negativi i tassi di interesse overnight, quelli in cui le banche depositavano alla banca centrale i loro soldi e li riprendevano la mattina. Ora, su questo non ritiene che, cioè, anche a maggior ragione un gruppo come il vostro debba impegnarsi senza rinunciare a una sana e prudente gestione, che nel passato non sempre c'è stata nel mondo bancario, ma a rimettere in circolo, a finanziare i progetti, non solo diciamo chi già è solido, ma a scommettere anche sulle capacità future? Questo è esattamente quello che abbiamo scritto nel piano industriale che abbiamo approvato questa primavera, che copre 4 anni. In questi 4 anni noi abbiamo come obiettivo di mettere a disposizione dell'economia reale, famiglie e imprese, 170 miliardi, che sono più del 10% del PIL italiano. Questo lo possiamo fare sia perché abbiamo una solida patrimonializzazione, sia perché abbiamo anche la liquidità sufficiente. La manovra della BCE mette a disposizione come rifinanziamento dei crediti concessi a questi particolari tipi di imprenditori delle somme a tassi molto interessanti, quindi questo ci aiuta, non è una condizione necessaria per noi, però è una condizione facilitante perché ci aiuta anche a ridurre il costo per i imprenditori. Voglio però sottolineare una cosa, che è importante la selezione dei imprenditori, cioè noi dobbiamo investire a imprese che abbiano possibilità di crescere, non ci mancherebbe, che siano in grado di restituire i prestiti. Noi grosso modo, dico delle cifre arrotondate, prestiamo 10 volte tanto il nostro patrimonio, il che vuol dire che se un imprenditore non restituisce 100.000 euro che vanno a detrazione del nostro patrimonio, noi dobbiamo ridurre il credito erogato di 1 milione. Questa è la responsabilità che abbiamo, noi dobbiamo scegliere dei imprenditori che abbiano possibilità di restituire, almeno a priori. Cioè, infatti dicevo, Presidente, con una sana e prudente gestione, ha ragione anche nel ricordare che le sofferenze bancarie sono sono a record. Grazie a Gianmaria Grospietro, presidente del comitato di sorveglianza del gruppo Intesa San Paolo. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un augurio di buona serata da Sebastiano Berisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.